Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, la corruzione, 120 miliardi di euro l'anno nell'Unione Europea e ben 60 di questi 120 miliardi sono a carico dell'Italia. Questo è il valore complessivo, appunto, secondo il rapporto presentato questa mattina dal Commissariato agli Affari Interni e dalla sua responsabile Cecilia Malmström. Nessun paese europeo è al riparo, spiega, e quanto ai nostri microfoni ribadisce anche il portavoce Michele Cercone, che sentiamo al microfono di Anna Migliorati. In Europa la corruzione continua a essere un fenomeno preoccupante e nessun paese è al sicuro. Quindi la foto che emerge è quella di un fenomeno che mette a rischio in generale circa 120 miliardi di euro ogni anno in tutta Europa. Un paese che ha fatto passi avanti e uno invece che dovrebbe farne di più? Alcuni paesi dell'area del nord dell'Europa, grazie ai registri di trasparenza, sono sicuramente tra i paesi in cui la corruzione è meno diffusa, altri paesi in cui purtroppo la situazione invece non sembra essere stata affrontata con altrettanta caparbietà e efficacia, e questo riguarda alcune aree del sud e dell'est dell'Europa. Difficile parlare dei singoli paesi perché non c'è una classifica. L'Italia come va? In Italia ci sono stati dei passi avanti significativi, anche se la situazione è ancora naturalmente luci e ombra. Viene menzionata ad esempio l'adozione della legge anticorruzione. Ci sono naturalmente alcuni suggerimenti che vengono dati al Paese, che è quello per esempio di estendere i poteri dell'autorità nazionale anticorruzione, di garantire la trasparenza degli appalti pubblici e cercare di colmare le lacune nella lotta anticorruzione nel settore privato. E ora parliamo della Siria. È una vergogna per la comunità internazionale, una situazione inaccettabile che gli aiuti umanitari per la Siria siano ancora bloccati. Così questa mattina il ministro degli esteri Emma Bonino, nel corso di un incontro con la vice segretario generale dell'ONU, la Amos, e con Kristalina Georgieva, commissario europeo agli aiuti umanitari. Ecco, hanno ricordato tra l'altro che 7 milioni di persone sono attualmente difficilmente raggiungibili dagli aiuti umanitari, circa 3 milioni di persone sono in uno stato di urgente bisogno. Il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani ha annunciato, come atteso peraltro, l'avvio della procedura di infrazione contro l'Italia sui tempi dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese. Dunque partirà una lettera di fatto e una procedura accelerata che concede al governo 5 settimane per mettersi in regola. Mercoledì per l'Italia sarà la prima giornata nazionale contro lo spreco alimentare, ne stiamo parlando noi a Radio 24 da qualche giorno, un tema che interessa anche la Commissione europea, ci sta lavorando con la campagna Generation Awake. Laura Bettini ha sentito Joe Hannon, portavoce del commissario Janez Potocnik. Generation Awake, spiega, è una campagna di comunicazione che la Commissione ha varato da quasi 2 anni, è rivolta in particolare ai giovani attraverso i social media con l'obiettivo di attrarre l'attenzione su diversi problemi ambientali. Ora stiamo concentrati sul tema dei rifiuti, del riciclo, del consumo delle risorse naturali in Europa e nel mondo. Tutti i rifiuti ci preoccupano, spiega il portavoce, ma lo spreco di milioni di tonnellate di cibo è folle se consideriamo quante persone nel mondo hanno fame. Con Generation Awake ci rivolgiamo ai consumatori, ma anche ai produttori, per cercare di evitare gli sprechi fin dall'inizio della catena alimentare. E con questo è tutto per l'appuntamento con l'Europa, che come sempre torna domani alle 14. Ora invece è tempo di essere tutti convocati, naturalmente con Carlo Genta. A domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.